Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti, sono le 16.07, Luca Tremolare al microfono, Sandro Mangiaterra, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, insomma, avete sentito dal giornale radio, problemi per chi si mette in viaggio, ma anche problemi, insomma, per tutto il mondo del regalo, per tutto il mondo della distribuzione. È Babbo Natale in difficoltà, è partito l'altro ieri dalla Lapponia, e però è arrivato al confine italiano ma si è bloccato. Ha preso un treno sbagliato, probabilmente. No, ha preso l'alta velocità, ma che si è trasformata in bassa velocità. Sto leggendo adesso una Nielsen, un comunicato stampa, parla del lunedì bianco, parliamo del lunedì che ha paralizzato tutto il nord Italia. Ebbene, quel lunedì è costato a tutta l'industria della distribuzione italiana una perdita del 12,5% in termini di vendite rispetto al lunedì dello scorso anno 2008. Quindi insomma un 22 dicembre drammatico. Però anche per i commercianti, insomma, e anche per le aziende. Per cui noi cosa abbiamo voluto? Abbiamo scelto di fare una sorta di puntata dedicata al regalo, materiale e immateriale, insomma un po' tutto. Esatto, cioè facciamo una puntata un po' diversa dalle altre, no? Dove insomma l'innovazione c'entra, perché sono sempre i regali nuovi, sono sempre quelli che tirano, insomma. Certo, no? Certo. E allora cosa facciamo? Noi abbiamo in collegamento, partiamo con il videogioco. Oh, partiamo quindi con il regalo proprio per eccellenza. Sì, no? Quello anche più complicato, perché adesso vedremo con Gaetano Ruvolo, che è il nuovo presidente della ESPI, l'associazione editori software videoludico italiano, che insomma il videogioco non è per tutti, cioè tu sei lontano da questo mondo, però c'è il videogioco vietato ai minori di 18 anni, c'è il videogioco per 16 anni, per 12 anni, per 7 anni e per 3 anni. Ma soprattutto io vorrei capire con Ruvolo se il videogioco tira e tira sempre di più. Buongiorno Ruvolo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, chi è che... Allora, innanzitutto giustamente si chiedeva Sandro Mangiaterra, è un bene aciclico il videogioco? Cioè funziona oggi? Com'è che va questo tira tipo sempre, di... Tira sempre, o ha subito anche lui un po' gli effetti della crisi? In minima parte, diciamo, veniamo da anni di grande crescita, il 2008 ha registrato un 20% nonostante la crisi in più rispetto al 2007, il 2009 pensiamo si chiuderà con un risultato positivo intorno al 4-5%, che di questi tempi non è male, perché altri settori registrano il segno meno davanti, certo. Sì, col segno meno davanti. Tra l'altro si era stato detto all'inizio di questa crisi, il videogioco sostanzialmente è un bene anticiclico, nel senso che la gente ha meno soldi, sta a casa e quindi sta davanti alla televisione e quindi gioca ai videogame, perché a differenza di un film, per esempio, il divertimento in termini di ore è più lungo. Tu devi sapere, Sandro, che un gioco ha dalle 10 alle 20 ore per finirlo, un videogioco medio. Dico bene, Ruvolo? No, dice benissimo, è uno dei settori dell'entertainment che nei periodi di crisi in questi anni ha mostrato maggiore vitalità. Ecco, però c'è un però. C'è un però, nel senso che un videogioco rispetto a un film costa parliamo per le console, costa dalle 50 ai 60 euro. Sì, diciamo le uscite novità hanno questo prezzo, ma sono anche legate ai costi enormi di produzione. I videogiochi che sono usciti negli ultimi 2-3 mesi, quelli più diciamo spettacolari, hanno richiesto come minimo un paio d'anni di lavoro di un team di almeno 100 persone, se non di più. Quindi costano diversi milioni di dollari di investimento. Sì, si parla di investimenti simili a quelli del cinema. Sì, in alcuni casi insomma li stanno superando, almeno quelli di media produzione cinematografica sono superati da quelli di grande produzione videoludica. Per una vendita di quanti milioni di copie, Ruvolo? Cominciamo a parlare esattamente di milioni e milioni di copie. Adesso sono usciti dei videogiochi negli ultimi, specialmente quelli di calcio, che in Italia e in Europa sono maggiormente graditi dai consumatori. Parliamo di 4-5 milioni di copie vendute nei primissimi giorni dalla pubblicazione. Ah, ho capito. Sì, si alza anche molto comunque la soglia di profitto, nel senso che molti giochi, a maggior ragione, per poi andare in nero, come si dice, devono vendere tanto. Certo. Infatti si è, come nel cinema c'è il blockbuster, cioè il filmone di Natale, quello con, certo, gli effetti speciali, così c'è il film del sé, ecco, quello un pochino per un pubblico, certo, di nicchia, un po' il più gioco povero. Del calcio è il cinepanettone, è, cioè, il cinepanettone da questo punto di vista. Io però non sapevo che, cioè, dunque, appunto, mio nipote che ha 8 anni è già un fanatico dei videogiochi, e noi, tutti noi continuiamo a chiederci: ma come facciamo a capire se questo videogioco va bene anche per un bambino oppure no? Io non sapevo che ci fosse una classificazione internazionale. Esatto, si chiama PEGI, Pan European Game Information, che è praticamente un sistema di classificazione europeo che si sono dati i produttori di videogiochi. È un organismo però a sé stante, quindi indipendente dalle case di produzione e di distribuzione, che assegna ad ogni singolo videogioco un bollino con l'età consigliata, l'età minima raccomandata per il videogiocatore. Ci sono 5 classificazioni, tra l'altro è stato introdotto quest'anno il PEGI 2.0, che ha introdotto anche dei colori, sono quelli del semaforo, che sono i più riconoscibili di tutti. Ecco, per cui... ecco Ruvolo, scusi se la interrompo. Prego. Perché poi, vabbè, io sono anche un appassionato, perché oltre al vietato ai minori di 18, che insomma dobbiamo dire ai genitori occhio quando comprate un gioco, perché di fatto purtroppo i più belli, come anche al cinema, cioè i più belli sono i film vietati di solito, così anche nei videogiochi, cioè tutta una serie di classificazioni che sono anche divertenti da leggere, cioè che sono, ogni gioco è corredato da dei warning, attenzione, faccio un esempio: il gioco contiene rappresentazioni di violenza e c'è un pugnetto stretto, oppure il gioco contiene linguaggio scurrile e c'è un fumetto, il gioco può spaventare i bambini. Ecco, la mia domanda è: ma chi è che decide queste cose? C'è questa commissione europea. Ma da chi è formata? Perché poi alle volte io, cioè, mi esercito su certi giochi dove evidentemente devi ammazzare dei nemici, perché poi insomma il gioco c'è una componente bellica, e vedo che sono vietate ai minori di 18, quando poi ci sono film come Rambo e così, dove si ammazzano tonnellate di persone, ed è un po' è un po' uguale da un certo punto di vista. Diciamo che il videogioco ha assunto una norma di comportamento più conservatrice, proprio perché per la grandissima diffusione del videogioco, parliamo di centinaia di milioni di pezzi venduti di software in questi ultimi anni, è necessario essere più guardinghi. Allora è poi il dovere del genitore interpretare e capire che cosa può andare bene per il proprio ragazzo o la propria ragazza, il proprio figliolo. Diciamo che sopra i giochi vietati ai minori di 18 anni sono quelli veramente più violenti. Adesso non tutti i giochi, sono alcuni giochi di guerra o di fantasy o di avventura che hanno per esempio una classificazione di 16, quindi dai 16 in su, dai 16 anni in su. Quelli 18 sono proprio i più violenti, quelli che anche... Oppure quelli un po' sporcaccioni. Sì, un po' violenti, sporcaccioni, quelli per un pubblico più adulto, più maturo, insomma, che può gestire i contenuti in maniera non ecco, offensivo. Ruvolo, rispondo solo velocemente a un sms che è arrivato, un ascoltatore dice: 2 anni di sviluppo con 100 persone, assolutamente sì, addirittura Grand Theft Auto, che forse è stato uno dei giochi più venduto di persone che hanno lavorato al gioco, erano anche di più, perché bisogna contare anche che c'è l'attore che presta la voce al personaggio, cioè è un'industria veramente uguale a quella del cinema, ed è un'industria che invece è completamente diversa, è quella del giocattolo vero proprio. Noi abbiamo in collegamento Leandro Consumi, che è il papà dei Gormiti. Buongiorno Consumi. Buongiorno a tutti. Consumi, buongiorno. Allora, qual è il Gormito del Natale 2009? Ci sono tutti nuovi eroi piccolini in arrivo, e stanno andando quelli del cartone animato, insomma, che è attualmente in onda. Ho capito, ma ce ne sarà uno che ai bambini fa impazzire? Ma diciamo Toby, che è il bambino e poi si trasforma nel signore del mare. Toby, il signore del mare, e sì, sta andando a ruba consumi? Sì, sta andando bene, meglio delle previsioni, insomma, siamo soddisfatti. Se qual è il segreto di Toby? È un gran lavoro che c'è dietro, che coinvolge anche in questo caso tante persone. Consumi, gli dica a Mangiatera che il segreto è che è un gran lavoratore. Questa è una persona onesta, una cosa del genere. Ma io volevo chiedere una cosa a Consumi: innanzitutto, a che cosa sta lavorando lui personalmente, cioè ad altri pupazzetti o a qualche cosa di diverso? Allora, in questo momento lavoro sia su Gormiti, che sul quale abbiamo due produzioni in atto, anche di cartoni animati, di serie televisive, un film che uscirà nel 2011, più tutte le nuove serie per l'Italia e per il mondo, diciamo, per i prossimi anni. E in più mi occupo anche di Cuccioli Cerca Amici, di Radiocomandi, di tutti i prodotti a marchio Gig, che vengono venduti. Gig è un marchio, un brand della Giochi Preziosi, una divisione della Giochi Preziosi, di cui sono direttore marketing, e quindi inevitabilmente passano tutti sopra la mia scrivania. Ma voi Consumi avete anche una produzione di videogiochi? No, noi stiamo realizzando per Gormiti dei videogiochi, quindi sottoscrivo in pieno quello che diceva prima il mio collega riguardo ai tempi di sviluppo e alla mole di lavoro che ci sta dietro, perché appunto è un lavoro immane, grande, divertente, come tutto quello che noi facciamo, per nostra fortuna, però che richiede molto tempo e altissima professionalità. Ma secondo lei, Consumi, il bambino, il vero bambino, dai 5 ai 9 anni, oggi, pur lavorando con la fantasia, eccetera, eccetera, ama di più il videogioco o in qualche modo ancora il giocattolo tradizionale, un pupazzetto? Allora, diciamo che fino ai 7-8 anni, per nostra fortuna, ama ancora il giocattolo. Dai 7-8 anni in poi inizia a esserci la battaglia fra noi e loro sull'attività ludica dei bambini, perché iniziano a dividersi, per così dire, il loro tempo nell'uno e nell'altro. Indubbiamente il videogioco apre, cioè, allora, uno dei segreti dei Gormiti, ad esempio, è il fatto che con i mini personaggi il bambino possa sognare, no? Perché più la size, la taglia del giocattolo è piccolo, più si può allargare il mondo di riferimento. In questo il videogames ci fa molta concorrenza, voglio dire, perché non esiste strumento migliore per un bambino di sognare, di immedesimarsi in una storia, certo, superiore al videogames. Diciamo, e qui ora tiro un po' acqua al mio mulino, mi scusi il collega, che finché i bambini sognano con i giocattoli tendono a sviluppare la propria fantasia e non subirla passivamente, come accade invece nel videogioco. Di cui io sono un drogato, insomma. Ah sì? Sì, lo apprezzo tantissimo. Allora, non so se è ancora in linea Gaetano Ruvolo. Sono qui, stavo ascoltando. Allora, Ruvolo, Toby è il giocattolo, il gormito, il gormita, non so se come si dice al plurale, al singolare, il gormito, facciamo così, del Natale 2009. Il videogioco del Natale 2009 qual è? Il boom, chi lo sta facendo? Diciamo, i giochi di calcio in questo momento lo stanno facendo da padrone, ma c'è un grande outsider che è entrato, perché proprio un gioco di avventura, anzi veramente sono due. Uno è Uncharted 2, che ripercorre un po' le gesta, diciamo, all'Indiana Jones, e un altro è Assassin's Creed 2, che sta portando, tra l'altro, ha avuto un grandissimo successo, così come Uncharted 2. In più sta dando, siccome l'ambientazione nel Rinascimento italiano, Venezia, Firenze, eccetera, secondo alcuni giornali anche internazionali sta portando indirettamente turismo, sì, e attenzione sull'Italia. Sono stati anche scritti degli articoli su questo gioco, perché sì, effettivamente, cioè, Ubisoft è il produttore e lui hanno ricreato esattamente l'Italia del Rinascimento. Per cui l'avventura cos'è? Tu sei il giochi in ruolo di un nobile decaduto da un certo punto di vista. Quindi bisognerebbe sentire il sindaco Cacciari per capire se... Sì, perché c'è anche Venezia, cioè una Firenze, delle prossime Venezia, azioni di Venezia la fa con, attraverso i videogiochi, insomma. Ma è piaciuto anche perché, tra l'altro, la cosa abbastanza divertente è che parlano un po' in dialetto, cioè cercano di parlare in dialetto, per cui c'è questo tentativo di rendere i fiorentini, che però non parlano esattamente fiorentino, ma sembrano un po' romani, i veneziani sembrano un po' fiorentini, per cui c'è anche il modo con cui il mondo videoludico guarda all'Italia, che è divertente da questo punto di vista. Comunque, insomma, giocattolo tradizionale o videogioco, mi pare di capire che neve o non neve stanno andando entrambi a mille in questo Natale 2009. Consumi? Sì, decisamente sì, anche se, insomma, questa neve un po' di problemi a Babbo Natale li ha creati, diciamo. Ma che la non a tanto a noi, avevamo, ma i gormiti non si fermano alla neve, mai. Noi siamo i signori della natura, voglio dire, che c'hanno paura, Ma i signori dell'inquinamento, visto come è andato anche un po' Copenaghen, cioè non ha pensato Consumi di fare l'altra parte del tavolo, cioè i signori che inquinano, cioè, per fare anche degli scontri, i cattivi veri, sì, facciamo... gli industriali magari, che le petroliere, boh. Nel nostro cartone animato attualmente i cattivi sono rappresentati dal popolo del fuoco e dal popolo del metallo. Il prossimo Natale, già nella serie televisiva, avremo anche il popolo del, anche del, perché c'è tutto l'inquinamento, ma insomma richiama esplicitamente quell'aspetto lì. Anche perché c'è tutta un'industria verde, green, una sensibilità ambientale, il fotovoltaico e così, che magari vuole la sua rappresentazione giocattolo. No, a proposito di quelle che dicevate prima, io sono fiorentino, sì, e essendo appassionato ai videogiochi ho Assassin's Creed pronto ad essere scartato, infatti speravo che non desse troppe anticipazioni sul gioco perché ancora deve iniziare a giocare. Sono terrorizzato da sentire parlare fiorentino e romano. Sarà dura, glielo dico subito, sarà dura. Però poi voglio sapere com'è andata, perché tra l'altro la Firenze è proprio ricreata in maniera eccezionale. L'ho comprato proprio per quello, perché ho visto la pubblicità, ho visto Firenze, la mia Firenze, adorata Firenze, e ho deciso di comprarlo per quello. Ecco, l'unico problema è che non si può entrare nelle chiese, cioè non si entra nel monumento, dentro al monumento, cioè si sta fuori, ci si arrampica sopra. Ma però... nelle chiese o anche negli Uffizi? Anche negli Uffizi, è tutto chiuso. È chiuso per maltempo. Allora, passiamo a un altro regalo, che però è un regalo che, insomma, è un po' di là da venire. Io sono in collegamento con Stefano Scaue, che è il presidente dell'associazione Blu-ray. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Lei deve sapere che quando ho detto a Mangiaterra, poi ho invitato anche Scaue, che ci racconterà questo nuovo modo di vedere i film in altissima definizione. Mangiaterra mi ha detto: ma cos'è il Blu-ray? Non me ne faccia una colpa anche lei, Scaure. Un po' sì. Però allora lo spieghi ai nostri ascoltatori come lo spiegasse a un bambino. Va bene, allora la spiegazione più semplice è questa: tutti stiamo comprando delle bellissime televisioni piatte a Full HD, tutti vogliamo la televisione Full HD perché fa molto status, però la realtà è che poi quando andiamo a casa e attacchiamo la televisione all'antenna sul tetto o al digitale terrestre, non possiamo vedere e sfruttare l'alta definizione, perché oggi non esistono sorgenti in alta definizione se non alcuni canali di Sky. Quindi per vedere appieno, per sfruttare appieno questi bellissimi televisori grandi, sottili, che stiamo comprando, è necessario dargli da mangiare, alimentarli con qualcosa in alta definizione. Ad oggi lo strumento migliore per farlo è un lettore Blu-ray, che è un lettore DVD, ricorda un lettore DVD come forma, ma legge dei dischi che si chiamano Blu-ray, che sono dischi che contengono contenuti, quindi film, serie televisive, concerti, in alta definizione. Solamente in questo modo si può sfruttare appieno l'investimento fatto. E vi assicuro che l'effetto che si ha è il cosiddetto effetto wow. Quando tu proietti un film con un disco in Blu-ray, hai una qualità di immagine, qualunque sia il film, vecchio, nuovo, d'azione o commedia, che poi fai veramente fatica a tornare a vedere la televisione. È vero che però si fa anche fatica nelle vendite in questo momento, nel senso che come sono i risultati sul Blu-ray? Allora, stiamo aspettando i dati naturalmente di novembre e di dicembre, una tecnologia che all'inizio è partita di fatto quest'anno. Noi contiamo e speriamo di arrivare con circa 150-160 mila lettori nelle case, a cui bisogna sommare, io spero, non so se Gaetano è ancora in linea, che possa confermare il numero, 1 milione o speriamo anche qualcosa di più di PS3, perché la PS3 è anche un lettore Blu-ray, per cui è possibile. PlayStation 3, quindi. La PlayStation 3 è un importante lettore Blu-ray, per cui tutti i possessori della PlayStation 3... Ecco, però ricordiamo che sono in vendita anche lettori ad hoc per leggere sia i DVD che il Blu-ray. Certo, sono i cosiddetti lettori Blu-ray, che oggi il cui costo è sceso molto negli ultimi mesi, si possono trovare lettori da 99 euro in avanti, e hanno anche il grosso vantaggio che consentono di leggere i vecchi. Ecco, però diciamo che quando è nato questo formato si pensava che nel giro di un anno avrebbe sostituito il DVD, questo però non è successo. Qual è il motivo? Allora, le ragioni credo che siano principalmente due. La prima è sicuramente che la situazione economica non ha aiutato la diffusione della tecnologia, ma questo è un male comune, in quanto tutti i consumi sono stati frenati e questo non è sicuramente un consumo primario. Il secondo aspetto è in questo voglio dire, è dove anche noi come associazione stiamo lavorando, è quello di spiegare alle persone che una televisione ad alta definizione non è ad alta, se non metti un contenuto in alta definizione, un Blu-ray, è solamente una televisione normale. Ecco, la telefonata non è in altissima definizione, invece mi dicono, si sente abbastanza male, parli un po' più vicino al ricevitore. No. Peggio. No, peggio. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada, sono le 16:32. Insomma, Sandro, abbiamo sentito il regalo complicato per l'approccio come il videogioco, ma assolutamente aciclico. Abbiamo visto il regalo classico per i ragazzi, il gormita, il pupazzetto, e abbiamo parlato anche del Blu-ray. Tra questa nuova frontiera dell'alta definizione, insomma. Solo un consiglio, Stefano Scauri, che è il presidente dell'associazione Blu-ray, qual è il film per eccellenza, cioè quello per capire veramente la che fa toccare con mano, diciamo, la differenza di effetti speciali e di qualità. Ad oggi credo che uno dei film più belli in alta definizione sia Il Cavaliere Oscuro assieme all'Era Glaciale 3. Batman, forse, quindi. Sì, Batman e l'Era Glaciale 3 sono fra i film che hanno riscosso il maggior successo in Blu-ray. Perfetto. Allora, a proposito di Blu-ray, anzi non a proposito di Blu-ray, in questa carrellata vediamo anche il regalo immateriale dell'ultimo momento, e forse uno dei regali immateriali, nel senso che non ha in mano nulla, ma dell'ultimo momento, è proprio quello di regalare un viaggio, di regalare la prenotazione su un volo, mandare la mamma, la famiglia. Natale, tempo di viaggi. Abbiamo visto anche com'è complicato. Noi abbiamo in collegamento Fabio Cannavale, che è presidente e fondatore di Volare Gratis. Buongiorno. Buongiorno. Già questo me lo deve spiegare, perché io già domani farei un bel viaggio gratis, volare gratis. Dove mi manda Cannavale? Allora, se vuole andare gratis non può partire domani, però prenotando con 2-3 mesi di anticipo, praticamente con 10 euro, 20 euro ci sono molte destinazioni tipo Londra, Barcellona, dove si può andare. Ecco, ma com'è che funziona esattamente Volare Gratis? Ma Volare Gratis, perché è un motore di ricerca, da quello che ho capito io. Sì, sia un motore di ricerca che un'agenzia di viaggio. Noi siamo collegati con tutte le compagnie aeree, sia low cost che tradizionali, nonché con tutti i voli charter. E quindi attraverso le richieste dei clienti, un database che ci costruiamo, diciamo, con le ricerche dei clienti, siamo in grado di sapere quali sono i costi per i voli per tutte le destinazioni. Tra l'altro da qualche mese abbiamo anche un sistema per trovare, per esempio, uno vuole spendere 50 euro e noi gli diciamo dove può andare. Ah, per cui in base al mio budget al io prezzo. Posso decidere. Esatto. Ho capito. Dura da 30 euro come minimo. Ecco, quindi insomma i voli low cost, queste straordinarie offerte speciali insomma, di cui si vedono anche le pubblicità persino sugli autobus e che però se uno cerca per conto suo non trova mai niente, voi tac le trovate. Proprio per venire in mano queste esigenze, incontro questa esigenza che tutti ci dicono ah ok 20 euro ma poi quanto si trova? Noi abbiamo messo su un sistema in cui proprio con 30 euro ti diciamo dove puoi andare, ti facciamo vedere magari 3.000 offerte a sotto i 30 euro, e proprio per venire incontro l'esigenza delle persone di trovare i voli veramente a 30-40 euro andato e ritorno tutto incluso. Qual è la insomma il vostro polso sulla situazione attuale? Qual è la località? Allora, la crisi, si viaggia lo stesso questo Natale o no? Sì, sì, quest'anno, nonostante la crisi, noi... No, sì, sì, non mica tanto convinto, era un sì, sì. Tra l'altro novembre-dicembre abbiamo fatto addirittura 80% più dell'anno scorso. Forse proprio visto che c'è crisi e problemi di budget, la gente si fa un po' più furba e cerca di spendere meno. Quindi magari viaggia. Noi quello che abbiamo notato è che la gente viaggia di più per periodi più brevi. Ah, ok, magari il weekend piuttosto che... Quindi no, quanto avete fatto voi un più? In questi ultimi mesi più 80%, tutto l'anno più circa 60% rispetto all'anno prima. Quindi la gente viaggia, continua a viaggiare ed è alla ricerca di offerte speciali. Ma dove viaggia peraltro l'altro? Cioè, ecco, quello che volevo capire dove io. Va? Ci faccia sognare, avanti. Beh, allora diciamo, chi vuole spendere poco va in Europa. No, dove, lei ci deve fare le offerte speciali, avanti. Offerte speciali, Budapest, allora, presentamente... 7 gennaio, 12 euro, perché avanti. Perché devi andare a Budapest? Perché lo vuoi convincere? La gente va a Budapest, paga. Da pazzi. Vabbè, Londra, Parigi. Londra, Parigi. Le grandi capitali europee. Ci faccia sognare, uno, via. Allora, se uno diciamo parte verso il 15 gennaio, riesce ad andare in tutte le capitali europee con massimo 100 euro andata e ritorno. Se poi prenota già adesso per febbraio o marzo, questi 100 euro possono diventare anche 20 o 30 euro. Qui ci sono gli ascoltatori di Radio 24 che sono eccezionali e mi dicono ma tutto compreso, le tasse, il carburante, perché è vero, di solito quando si utilizza il low cost, se hai la valigia si pagano 8 euro in più, se ce l'hai un po' più grossa sono, se vuoi partire per prima e non fare la coda sono 5 euro, se vuoi l'SMS sono 2 euro, lo dico perché ho appena mandato... Beh, però questo uno lo può vedere in due modi, nel senso uno 20 euro o 40 che siano viaggia senza valigia, se poi vuole la valigia ne spende altri 8, però permette anche a chi, differenziando più il prezzo, si fa sì che chi veramente è attento a tutte queste cose riesce a spendere un po' meno, quindi ognuno spende esattamente, come dire, menù alla carta tutto compreso al ristorante, no? Invece di fare tutto compreso ti faccio pagare solo quello che usi. Ovviamente chi non usa i bagagli fa fare meno fatica alla compagnia aerea, è giusto che costi meno. Ecco, proprio guardando un'occhiata agli SMS, volevo tornare un secondo da Stefano Scauri sul Blu-ray. Perché alcuni ascoltatori hanno detto, hanno scritto, provo a riassumere, il problema del Blu-ray è la scarsa disponibilità di film. In parole povere, dice in particolare Massimo da Lucca, ci sono pochi film. È vero in parte o sbaglio? Allora, a Natale dovremmo arrivare a circa 1.000 film pubblicati in Blu-ray. Allora ha ragione Massimo da Lucca, sono pochi. Sono pochi 1.000? Sono tantissimi. Voglio dire, in assoluto sono d'accordo che non sono tantissimi, però insomma 1.000 film. C'è una buona scelta. C'è una buona scelta, credo, voglio dire, ci sia scelta per tutti. Oramai tutte le novità escono in Blu-ray e tutte le più grandi case piano piano stanno ripubblicando i titoli di catalogo in Blu-ray. Notizia dell'altro giorno che il 6 di aprile dovrebbe uscire la versione in Blu-ray dei tre film del Signore degli Anelli, per cui piano tutte le case cinematografiche italiane, americane o europee stanno ripubblicando il proprio catalogo in Blu-ray. Oggi siamo già quasi a 1000 titoli, insomma, per cui credo che la scelta sia già ampia. Ecco, un'altra domanda che arrivava è: ricordate a Scouri, insomma, che esiste anche l'alta definizione attraverso il digitale terrestre? Mi permetto di rispondere io: non c'è ancora, o sbaglio? C'è con Sky. C'è con Sky, esatto. Sky ha una, diciamo, offerta in digitale terrestre, insomma, sono con un discreto numero di canali. Sul digitale terrestre mi risulta che Mediaset faccia qualche partita. C'è qualche sperimentazione, sì, infatti, cioè, l'HD, o meglio, il Full HD, che è diciamo, insomma, la qualità più alta in questo momento, c'è solo con un lettore Blu-ray o con la PlayStation, dico bene? È così. Sky ha un livello di alta definizione. Se vogliamo parlare in termini di televisori HD ready, è il livello inferiore. Oggi la piena, il full HD si può avere solo utilizzando un disco Blu-ray o con un lettore Blu-ray o con la PlayStation. Ecco, se mi posso permettere, la difficoltà secondo me che ha avuto il Blu-ray è anche nel comunicare la differenza tra l'HD e il full HD. Sono d'accordo, infatti questa è una delle cose che in associazione ci diciamo sempre, perché per noi addetti ai lavori sono sigle facili, e infatti stiamo, insomma, l'associazione si è data da fare anche facendo attività proprio nei punti vendita a ottobre, a settembre, ottobre, novembre, proprio per spiegare, per fare un'attività di education. Cioè, la cosa anche da, cioè, il punto cos'è? Perché io dovrei passare, ho appena comprato un televisore HD, perché dovrei prendere un televisore full HD? Qual è la differenza? Lì bisogna andare in un negozio e far vedere. Purtroppo l'unico modo è vedere. Quando uno vede, però, capisce. Siamo sicuri, capisce e vuole l'alta definizione, perché è un altro modo di vedere la televisione. Se mi posso permettere, un tema forte è anche il prezzo, cioè il Blu-ray costa più del DVD. È così, come tutte le tecnologie all'inizio i prezzi sono alti, però sono in discesa. A oggi si possono trovare titoli molto molto belli a 12,90€, 14€, quindi con un delta prezzo rispetto allo standard DVD, credo giustificato. Ecco, ma voi non credete che nel momento in cui si riesce a pareggiare il prezzo, allora a quel punto funzionano le cose? Perché in questo momento, ribadisco, io sarà che sono anche genovese, però già devo comprare un lettore, poi devo anche spendere di più per avere il film. Purtroppo questo voglio dire e soprattutto non so, ma si affittano già? E mille si trovano ovunque questi titoli? A noleggio non tutti. Sto banalizzando. Esselunga si trovano? Esselunga si trovano una selezione limitata, ma così come i DVD, ci sono negozi o catene che sono specializzate nel cosiddetto catalogo dove si può trovare tutto, o altri negozi che hanno solamente le novità, ma questo riflette quello che accade anche nello standard DVD. Purtroppo il discorso del prezzo è un tema che non può essere affrontato per legge a livello di associazione, ma è lasciato alla scelta di ogni singola azienda. Non possiamo assolutamente non solo metterci d'accordo, ma neanche parlare di prezzi. È il mercato, è la concorrenza. Se si va a vedere, tante aziende hanno lanciato per Natale offerte estremamente aggressive di prezzo, e bene o male poi gli altri, c'è un effetto imitazione, per cui, insomma, credo che il problema dei prezzi nel 2010 non credo che andranno uguali allo standard DVD, ma la differenza sarà, secondo me, limitata e ragionevole, ma soprattutto giustificata dalla differente esperienza che si può avere. Volevo tornare un attimo a Cannavale, se c'è ancora. Non c'è più. Cannavale! Sì, sono qua, mi sentite? Sì, allora, sì, Cannavale, sì. Ci dica dove vanno gli italiani a Natale e a Capodanno, lei ha il polso. Allora, gli italiani quest'anno vanno molto negli Stati Uniti, New York e Miami. Dollaro? Sì, il dollaro basso, è effetto dollaro. Ottime offerte fino a 15 giorni fa, adesso costa un po' di più se uno vuole andare proprio il 26 dicembre, ma già partendo il 1 gennaio ci sono grandi differenze di prezzo tra partenza 26 dicembre e 1 gennaio. 1 gennaio già si spende la metà. Ok. Quest'anno poi c'è l'Epifania al 6 gennaio, è possibile fare un bel ponte anche. Quindi Natale a Miami. Natale a Miami, oppure esistono ancora delle offerte speciali su Kenya e sui Caraibi con sconti di un 20% perché sono dei last minute, per dire il Kenya 1200 euro, una vacanza di una settimana tutto incluso. E sono gli ultimi posti rimasti e allora lì ci sono degli sconti da parte dei tour operator. Va bene. Va bene, grazie Cannavale, grazie Scawi, grazie Ruvolo, grazie Consumi. Nova Lab 24. Allora, bentornati. Mi sembra di capire che Sandro Mangiaterra non andrà negli Stati Uniti, cioè no. Non si è fatto convincere, non si muove da casa sua. Sono cioè convinto che è una battaglia. Però secondo me si compra il Blu-ray. Forse potrebbe essere. Sarei tentato da questa cosa del Full HD. Tra l'altro, la voce che state sentendo l'avete riconosciuto, è Pierangelo Soldavin, vice caporedattore di Nova 24, che insomma ci presenta un paginone di Nova domani in edicola, tutto dedicato Al Natale diciamo che usciamo il 24 alla vigilia di Natale e quindi abbiamo un problema. Il last minute, cioè proprio ci svegliamo al mattino e diciamo caspita, ci mancano ancora un sacco di regali. Anche Nova 24 domani parla di regali e di Natale. Parliamo di regali, ma parliamo con due strade. Da una parte ai nostri lettori se volete regalare qualcosa di veramente pieno di senso, regalate una parola, un concetto, un augurio, e allora facciamo una serie di esempi di cose che si potrebbero regalare, di concetti che i nostri blogger, i nostri collaboratori si regalano al nuovo anno. Mi ha incuriosito, fammi un esempio, Pierangelo. Ti faccio un esempio, per esempio c'è qualcuno che dice studia. Wow. Oppure c'è chi dice pace, c'è chi dice fiducia. Però puoi anche non rispondergli, cioè nel senso, perché è ironico in questo momento. Invece io prendo sul serio. Cioè, ma sbagli. Cioè. Pace. Pace, fiducia. Però non voglio svelare, perché ce ne sono di belle, c'è la luce. Cioè, ci sono dei concetti belli che sono venuti fuori dai nostri collaboratori. Dall'altra parte, invece, per chi invece è preso dal panico, che si sveglia domani mattina e non sa cosa può regalare all'ultimo minuto, invece di girare come una trottola per negozi, per in città assolutamente trafficate, incasinate, può aprire il paginone di Nova e scoprire delle cose assolutamente, che forse non sapeva neanche, che regali che si possono fare senza uscire di casa via internet e che vengono consegnati nell'arco di 24 ore. Facciamo un esempio: si può comprare un minuto su myminus.org, è un sito dove, per esempio, per celebrare il minuto in cui tu ti sei sposato, insomma, che vuoi ricordare, prendi una tua foto, la mandi e su un calendario che resta eterno su internet fino a quando non spengono il server, tu hai quel minuto che è tuo. E quindi puoi regalare questo minuto a una persona. Bellissimo. Poi oppure vogliamo andare sulle cose curiose? Vai. Il modo per sequenziare il genoma. Tu vai. Oddio, non costa pochissimo, sono $400. Poi dopo io ho il regalo che ti chiederò, Luca. Ah, perfetto. Quello me lo sono tenuto qua e poi dopo mi devi chiedere cosa vuoi come regalo. Questo te lo dico già subito, okay. No, ma alla fine dopo. Facciamolo. Cosa vuoi come regalo? Guarda, visto che so che quest'anno tu farai lo splendido, nonostante tu sia genovese, yes. Guarda, un biglietto per lo spazio. Sì, quello col dollaro. Col dollaro basso, debole, guarda, ti viene via che quasi niente. Sono 200.000 euro, no, sì, 200.000 dollari. Sono 134.695 euro. E andare sullo spazio costa meno della Ferrari. No, guarda, rispetto all'anno scorso siamo già al 25-30% in meno, quindi fai un affarone. No, poi un'ultima cosa: c'è anche una televisione, cioè una web TV che ti consente di adottare una pecora. Cioè, questa è bellissima. È una web TV dove tu adotti la pecora. Il contadino collegandosi ti racconta la sua storia da contadino, da pastore anzi, e poi ti manda il latte fresco. E questo è bello, cioè un ma ci sono adesso, sembra che stiamo prendendo un po' sul ridere, ma ci sono delle cose assolutamente reali, cioè dalla musica ai libri che si possono regalare in maniera virtuale, così, alle cose di solidarietà, per esempio, che tu puoi regalare a nome di altri, oppure si puoi aiutare un imprenditore in un paese, insomma noi facciamo ce ne sono di tutti i generi, per cui prima di uscire per domani mattina comprate Nova. Quindi ultimo minuto, creatività e un mouse, il paginone di Nova domani in edicola. Noi vi salutiamo, l'appuntamento è per domani alle 16. Ciao ciao, ciao. Nova Lab 24.